Buon Natale! Ah cazzo, forse ho il microfono ancora alto. Ho assordato tutti con sta cacata. Allora, buon Natale, puntata numero 37, puntata prima di Natale, perché mi hanno suggerito di fare una puntata prima di Natale. E io non volevo farla perché odio il Natale. Non è vero. Con me ci sono Jacopo. Salve. E Andrea. Ehi. E Roberta che sta dormendo, ma ciao, ecco appunto. Citiamo. E, allora, come tutte le belle puntate di Natale e le cose, allora, prima di cominciare con il nostro episodio natalizio, dovrei fare una menzione d'onore a uno degli attori, a una persona, esatto. A uno degli attori preferiti di questo podcast. E che ha vinto un premio di recente, esatto, questa settimana. Solo che era troppo occupato a fabbricare i giocattoli per i bambini buoni al Polo Nord, dove esatto. Fa tutti i suoi film, a quanto pare. Tra l'altro è un suo vanto essere di una nazione incredibile come la Danimarca. E questo attore è Mads Mikkelsen, che ha vinto il premio come miglior performance pubblico in delirio nel videogioco preferito di Jacopo dell'anno, Death Stranding. Andiamoci leggeri. Sì, ha vinto un premio per la recitazione, nonostante sia poco nel gioco in realtà. E basta sparargli in testa, da quello che ho sentito. Esatto. E non era neanche lì presente cioè ci stava tipo Norman Reedus e anche un'altra tizia, Vince Wagner, ma non ci stava lui. Comunque, beh, sì, congratulazioni per il premio. Che non ha vinto un cazzo, tra l'altro. Non ha vinto, no, sì. Congratulazioni, Mads. Ti amiamo per che questo. Non ha vinto. Va bene, niente, cazzate a parte. E, allora, visto che questo doveva essere un episodio di Natale, io, come tutti i buoni episodi di Natale, avrei voluto parlare del mio film di Natale preferito, che, come tutti voi sapete, è... Non lo sapete? Beh, potete immaginarlo. È ambientato... Natale di Topolino. No. È ambientato Natale a Natale... In India. No. Ah, è Die Hard, scusa. Bravo. Perdonami per il ritardo. 104. Che ritardato questo. Va bene, volevo parlare di Die Hard, però mi è venuta un'altra idea. Visto che il Natale di solito è associato a film, diciamo, che trattano di morale, cioè è una scusa come un'altra per raccontare una favoletta anche agli adulti, detto in modo molto... Cioè, fondamentalmente tutti i film natalizi sono tutti uguali e sono una rivisitazione delle favolette per bambini, ma riscritte in chiave da adulti. Tipo, oddio, che alla fine il bene, che l'amicizia e la famiglia sono la cosa più importante, fare una buona azione riporta una buona azione, tutte ste puttanate qua, che durante l'anno la gente non dice, ma le dice, o meglio, le dice solo ai bambini, con la scusa di fare morale, ma a Natale lo dice agli adulti. Vabbè, questo era un piccolo momento. Comunque, Sala, in ogni episodio mi fai esplodere la testa. Ho appena capito che una poltrona per due è il principe e il povero. Mi sono un demente. Può essere. Allora, cazzo, è vero. Visto che mi annoia parlare di cose appunto noiose, ho deciso di costringere tutti a vedere uno dei film... A sto punto guardiamo un cartone per bambini, fanculo. E ho costretto tutti a guardare il Mickey's Christmas Carol, che è il canto di Natale di Topolino, ovvero la rivisitazione della favola di Dickens, della favola, del racconto di Dickens, canto di Natale del 43, mi pare, in questo cartone che è non troppo... No, nuovo. Dell'83. No, vabbè, quello di Dickens è del 43. Il cartone, bravo, dell'83. Come del 43? 1843. Ah, ok. Ti ho preso un colpo. Okay. Ok. Ho detto 1900? Ma è figo. No, pensavo, vabbè. Ok, sorry. Sì, no, hai ragione. È 1843. E, appunto, il canto di Natale non è tanto più nuovo perché appunto è dell'83. Vabbè, comunque sia, che tra l'altro mi pare che ancora in televisione ogni tanto lo sparino nei giorni di Natale, quindi tutto riguardatevelo quest'anno. Ed è palesemente come si può dire, il palesemente il l'Avengers dei canti di Natale. No, appunto, è ispirato, ma è anche, cioè, praticamente segue esattamente la trama di Canto di Natale. Tra l'altro avevo costretto anche a quelli del podcast, i miei colleghi, a guardare l'episodio di DuckTales dell'anno scorso, speciale di Natale, che è una citazione all'episodio al Canto di Natale di Topolino, che è a sua volta la citazione di Dickens, e quindi è praticamente Dickens in chiave azione moderna. E non so quanti l'abbiano fatto, però vabbè. L'avete fatto? Io. L'hai fatto, Andrea? No. Porca troia. Vaffanculo. Però Jacopo l'ha fatto. Allora, piccola menzione d'onore a parte sulla serie in generale, guardate DuckTales nuovo, la serie nuova è stupenda. Sono innamorato di quella serie. È piena di citazioni anche sia dell'universo Disney sia di altre cose a caso. Diciamo che la puntata da sola funziona, ma funziona ancora meglio se hai visto la serie intorno, diciamo. Purtroppo. Sì, in realtà funziona anche se hai visto appunto il Canto di Natale, perché molte cose sono richiami alla favola al film d'animazione dell'83. Sì. Ah, se qualcuno vuole vedere solo quella, è la sesta della seconda, quindi S02 e 06. Last Christmas si chiama la puntata. Sì. Mi sembra di sì. Sì, sì, sì. Allora, intanto, vabbè, appunto, non vorrei stare a parlare qua tantissimo sul cartone dell'83. Scrooge interpreta Scrooge ed è molto bello perché, appunto, sembra fatto apposta. E lo è. I fantasmi sono incredibili perché c'è il Natale futuro che è gamba di legno, il Natale presente... E non mi ricordo chi è il gigante, mi pare. Ah, aspetta, scusate, per chi non sapesse, il nome Paperone dei Paperoni in inglese è Scrooge McDuck, quindi sì. Proprio Scrooge è sempre stata la citazione diretta di Ebenezer Scrooge, che è quello lì di sì, che qua si chiama poi Ebenezer, mi sa, però vabbè, ci sta. E il grillo parlante è il fantasma passato, e poi c'è un Pippo incredibile. Fantastico. Che è il fantasma del collega morto. E vabbè, e alla fine è tutta la scusa, è una scusa bellissima per far vedere ai bambini il Canto di Natale di Dickens. E invece l'episodio di DuckTales cita un sacco di robe, ovvero la citazione, quella che dicevo prima, Jacopo, Humbug di Scrooge. Che anche mi faceva notare che anche nell'opera originale, e in generale è la stessa roba, ma un po' più azione, perché DuckTales è un cartone d'azione. Ci siamo? Sì, anche il significato è un po' diverso, alla fine, un po' sì, più moderno. È, esatto, è più moderno ed è molto carina sta cosa, però alla fine la morale è sempre la solita. Più o meno, sì. Cioè, è meno incentrato sull'avarizia e più su... La famiglia, sì, sulla famiglia, gli amici, insomma, passare insieme il Natale. E straordinariamente anche sull'ossessione, che è una cosa molto difficile da ficcare in 20 minuti di cartone. Va bene, allora, detto queste cagate, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi dei film di Natale. Nel senso che il mio pensiero è questo, cioè il mio pensiero è che i film di Natale... non mi piacciono in generale, poi ne ho visti parecchi, ma non mi piacciono perché appunto è una, mi sembra solo una scusa per riproporre delle storie sempre uguali su Babbo Natale e la famiglia che è bella. Per esempio, oggi ho visto Klaus, che se non avete Netflix potete guardare gratuitamente, è appunto un cartone che parla di Babbo Natale e... È carino, e dal punto di vista di animazione è molto bello come tipo di grafica, eccetera. Però è la stessa fregnaccia, tutto qui. E voi cosa ne pensate invece? Beh... Ma concordo, onestamente, non sono mai stata una fan di film di Natale. Ci sta, fa freddo, hai mangiato da morire, vuoi vederti un film, e dici... a tema, senza troppo sforzarti di cambiare tema. E ok, però sì, cioè, nel senso. No, anzi, li odio un po', se proprio devo essere onesta. Ma sì, Il no, non ci provo nulla di più Grinch. di ok, mi sbacco sul divano il giorno di Natale perché ho sonno e mi vedo questo film qui, ma a volte hai difficoltà anche a capire la differenza tra un film e l'altro perché non c'è. Ecco, salvo, insomma, il canto di Natale, però è un'altra. Per me è un altro livello, insomma. Beh, la Quello è un Disney po' poi è una molto nicchia, sì. forte in questa cosa, però nel senso che fa da una vita cartoni animati con una bella morale in fondo, per cui Natale poi gli è molto facile fare una roba del genere. Sì, diventa un po' la scusa, no? Però per il resto siamo a livello del cinepanettone, cioè nel senso. Ma noi siamo degli amanti del Cinepanettoni cinepanettone. sono quei Ecco. pacchetti di film tutti uguali, in cui più o meno tutti vogliamo sentirci le stesse cose, trite e ritrite, la morale e la famiglia. Il Natale, boh, a volte anche poi in maniera, non so come dire, veramente esagerata e finta, no? Questa atmosfera natalizia che per forza deve esserci e pervadere le nostre case, quando poi sappiamo tutti che, boh, non è che è sempre così, insomma. Madonna, Madonna, proprio che brutta, che cinismo, grigiume. È buon che Natale. cinismo. No, li ho proprio odiati perché ci vedevo qualcosa di estremamente fa falso, capisci? In quei Babbi Natali, American Style, ho ho ho, in quei bimbi, in quelle famiglie, in quelle madri che facevano il tacchino, cioè quasi mi urtavano, vi dico la verità. Tacchino ringraziamento però. Però sì. No, lo fanno anche a Ai ai ai. Natale. Ah, attenzione. Jacopo. Ma, cioè, io devo ammettere, mi piace come cosa da mettere, cioè, in sottofondo mentre non ci fai attenzione. Però, cioè, pensandoci, ce ne saranno 1 milione di film di Natale e forse se ne salvano tre. Cioè, veramente, di film che mi sono messo a guardare perché mi ci sono messo per forza e che alla fine mi sono piaciuti. Un po' per nostalgia, un po' per altro, sono veramente po'. Allora, Una poltrona per due è bello, però cioè ti ci devi mettere, nel senso ti ci devi mettere con l'intenzione di guardarlo, perché se non mi ci fossi messo io di intenzione, cioè solo la prima metà si guarda di solito di un film di Natale. È bello, è Diciamo, vero cioè, però, hai la ragione. seconda metà, cioè la Vero. seconda metà un po' o dormi o apri la tombola o cioè. Bello. Però è bello, John Landis, Ma sì, ma consigliato. in fondo è per quello che ho pensato di costringervi a vedere questa roba qua, perché tanto vale guardare una roba Esatto, carina. un altro film che mi è rimasto molto, un po' per nostalgia, un po' perché è bello, è questo, che non ha nessuna pretesa, è fatto bene, Dura sono anche 20 personaggi che minuti. ami, dura 20 minuti, cazzo, era una cassetta che avevo da piccolo, quindi un po' tutte queste cose insieme, anche DuckTales però, cioè, è Sì, ma poi fatto bene. questo qua viene anche venduto, tra virgolette, con una serie di altri intermezzi, di altri cartoni che non hanno morale, ma sono semplicemente carini per bambini, quindi è super Ah, è vero, easy. è vero. Comunque sì, poi diciamo la cosa che genera avere 5 milioni di film di Natale fatti a cazzo, tipo con Schwarzenegger o roba del genere. Ah, perché, buon Natale zio papà. Comunque È la cosa vero. figa di questa cosa è che poi genera una specie di contro reazione e quindi escono film tipo Krampus che sono spettacolari, non so se l'avete visto. No. Cioè, è un film Non dove Babbo Natale è malvagio. O anche, aspetta, c'è anche un film tipo norvegese dove c'è Babbo Natale che è tipo il demonio. Sono, film un so. po' più, diciamo, sovversivi che sono molto divertenti a volte. Quindi, boh. In generale, sì, fanno un po' cagare, però non tutto da buttare, Beh, insomma. Andrea? siamo tutti d'accordo su questo, Ah, quindi ok. comunque. Io l'unico film Natale in di India. Bellissimo Natale. No. comunque. Il Evviva i migliore. cinepanettoni! No. No, l'unico film di Natale che penso che ogni anno me lo riguardo sicuramente, una volta all'anno lo guardo sempre, è Nightmare Before Christmas. Bello, Ah, sì. vero. Avrei Bello, potuto diciamo che proporlo, vale, c'è ma è chi gliela sente, scontato. insomma. No, bello. Hai ragione, hai Hai ragione. ragione, bello, In bravo questo Andrea. periodo ci sta, me lo sparo. Ho cambiato idea, Natale vale la pena. Natale è un bel periodo, bei film, vero. Sì, cioè poi ci Tu sono dei bei film tipo Natale con la casta, quei film. Bellissimi, ragazzi. Parlamanto. Parlamanto. Salla, il Parlamanto è importante. Anche Die Hard, è vero, sì. Hard, certo. Che poi ho saputo di recente, no, non di recente, ma un po' di tempo fa, che Bruce Willis si è arrabbiato perché gli hanno detto è un film di Natale. E lui ha detto non è un film di Natale e in effetti ripensandoci potrebbe avere senso perché tutti No, danno per no, scontato che sia ambientato il no. 24, ma chi Invece? è, ma quale azienda farebbe mai una festa aziendale di Natale il 24? Quindi in effetti Vabbè, ci però sta, dai, il clima è natalizio, con tutti quei condotti di elezione ma natalizi. in realtà dà talmente tanto per scontato che sia il 24 dicembre che a tutti lo crea, è tipo un effetto Mandela. L'effetto Qual è l'effetto Mandela? Mandela è quello che adesso va di moda un sacco, uscirà anche il film su sta roba qua. Non so se sapete di cosa parla. L'effetto Mandela è tipo quell'effetto in cui la memoria costruisce falsi ricordi. Ah. E è una roba tipo una roba sociale. Non volevo parlare di questo nella puntata di Natale, però. Ma sei sicuro che l'effetto Mandela è quello? Se metti male, subito la definizione nella tua testa per... Cazzo, non lo conoscevo. Ad esempio, vabbè, prende il caso tipo, cioè credo che il nome sia perché tutti pensano che Mandela sia morto non so dove, e invece è morto. Mi ricordo. Però è una roba Cioè, per su. dire qui che una donna era fermamente convinta che Mandela fosse morto anni Esatto. prima, invece è morto nel 2013. Esatto, sì. Ma ce ne sono un sacco, tipo il monocolino nell'omino del Monopoli, che tutti vedono il monocolino, invece non c'è. Ma Cazzo. ce ne sono veramente 200.000. Vabbè, comunque, non volevo parlare di Ma forse è questo. questo Natale. Natale l'effetto Mandela. Tra l'altro uscirà un film su sta roba qua di fantascienza super intricato, intrippante, tutti, vabbè. Bellissimo anche l'episodio di Natale di Community. Adesso la smetto, scusa. Oh sì, esatto, cioè, e tra l'altro secondo me sono molto più belli gli episodi speciali che fanno le serie TV sul Natale rispetto al film in sé di Natale, tipo Community ne ha fatti un paio, mi Tipo pare, tre, tre, sì. forse tre, quattro, boh. C'è quello in stop motion, che è Fantastico. fico. Poi c'è quello Fantastico. della prima in cui si menano, che è anche quello. E poi non so se c'è un altro. C'è un altro? Sì, C'è ce n'è quello un altro. di Quello di Glisi. Glee. Sì. E sì. Comunque, vabbè. No, niente, basta. Buon Natale. No, so che Jacopo vuole fare una rubrica che a me non Una piacerà. scommessa, vabbè, non è. Invece di fare la solita scommessa con i box office, che è chiara, semplice, divertente e ha senso, ne faremo una che non piace a nessuno e che non ha nessun senso. Proveremo a indovinare senza sapere nulla, senza aver visto neanche gli ultimi trailer. Andremo a vedere però il film prossima settimana. Sì, Sì. andiamo a vedere Star Wars E faremo episodio forse 9. una puntata, sì. Contro Forse faremo una puntata, sì, una le registrazione. regole di questo podcast, tra l'altro. Sì, Farò ma una tanto Star puntata. Wars è talmente famoso, lo fanno tutti, che fa il giro, cioè diventa un'altra volta sallotto. Allora, come finirà Star Wars episodio 9? Proprio, secondo me, negli ultimi 5 minuti ci sarà una scena di la principessa Leia che guarda in camera, Principessa Leia crepa in questo film, intanto. che sorride. E io mi sentirò molto in imbarazzo e uscirò veramente inquietato e imbarazzato. E cos'altro? Non lo so. L'ultima scena, boh, la danza di Fortnite con l'imperatore, non lo so. Date voi. Allora, intanto il film finisce bene. E fin qua ci siamo. Vabbè. E beh, non è così, cioè è scontato, ma non è così. Allora, finisce che sono tutti buoni e bravi. Allora, intanto io spero che, come dicevo, intanto finisce come un film di Natale, cioè tutta la famiglia è felice. E Ok, poi perfetto. volevo dire un'altra cosa, io spero che Luke sia morto. Ok. E anche nel finale, anche se so che nel finale apparirà quel pezzo di merda come un fantasma. Bravo, Ah, ok, quindi ritorno dello Jedi praticamente. con la Due. Vabbè, festa. tanto è ciclico più o meno, ci siamo. Ci sta, ci Ah, non sta. è ciclico. Quindi Sala scommette No. ritorno dello Jedi, io scommetto roba inquietante e imbarazzante. Oddio, in realtà è la stessa cosa, vabbè, ok. Andrea? Comodo. Non lo so. Troppo difficile questa quest. Come vuoi che Questa quest. finisca? Daenerys impazzisce Daenerys? Chi è Daenerys? Non lo so. Sai, Jacopo, che Mi mi arrendo. sono giunte lamentele della tua tastiera. Sì, lo so. Però non posso farci No, niente. tranquillo, e tanto dopo le carte di Andrea va bene qualsiasi cosa. Quali Cercando carte di di Andrea? scrivere di Le meno. merendine. Dai, Andrea, dici come finisce. Non finisce, boom. Boom! Mi Andrea dice non finisce, dici rimane anche boom, appeso. però scrivi. Rimane appeso, boom. Boom. Roberta, vuoi provare? O... Dai, ragazzi, scusate. Non ce la può fare. Vabbè, allora, io scommetto io per Ci sta. Roberta. Secondo Roberta finisce Secondo me con Rey diventa che... cattiva e Kylo Ren diventa buono. Ah, e che Lando si riprende il Falcon, ecco, secondo Lando si riprende il Bellissimo. Falcon. Questa è la Lando si scommessa di riprende il Roberta. Falcon. Ti prego. Questa scommessa di Roberta sarà l'unica che ci azzeccherà. No, Lando che si riprende il Falcon è il mio, aspetta. Che Ah, egoista che ok. sei, Andrea. Che egoista. Allora Roberta scommette che... Roberta scommette che finisce come... Finisce come Rogue One. Quindi c'è cioè, gente morta, però bello il finale. Cioè arriva Gente Darth Vader. morta. Esatto, gente morta, ma finale bello. Povere spie botan. Darth Vader uccide tutti. Ok. Va bene, dai. Va bene. Yes. Noi vi auguriamo un buon Natale e ci vediamo la prossima settimana con, credo, un episodio di Star Wars, altrimenti abbiamo già registrato il sostituto, che è l'episodio famoso in cui tutti mi insultano, e l'abbiamo già registrato, quindi è davvero così. Confermato. In cui parleremo di un regista di film di Natale, palesemente, perché sono tutti uguali, come avete detto. Vabbè, evitiamo di prendere altri insulti. Ok. E ciao, buon Natale. Buon Natale, zio papà.